Sì, io devo condividere una parola oggi, credo che l'ultimo canto ha detto tutto già, non devo neanche predicare questa mattina, perché sì, era così tanto, tanto forte, Dio anche mi parlava forte nel cuore. 20 anni fa più o meno stavo vivendo un momento speciale. Sapete quei momenti quando uno è fatto pezzi, che è tutto rotto, no? E ero in un piccolo paese, lontano da mia casa, e ci avevano fatto un invito di andare a una chiesa, e in quella chiesa molto povera stavano per nominare un pastore nuovo. E è venuto un pastore di un'altra zona e ha iniziato a condividere. Ma sapete che le parlava in una maniera diretta al pastore nuovo, al che stava per essere consacrato come un pastore nuovo, ma di una maniera molto forte, così che me lo ricordo oggi, fino ad oggi, me lo ricordo, Dio mi stava parlando a me. Il verso che usava questo pastore, che voglio condividere con voi in questa mattina, se lo possiamo vedere, sta in 2 Corinzi, del capitolo 4, verso 7, un verso piccolo, però che dice tanto, tanto, tanto. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Possiamo leggerlo di nuovo, anche poi leggerlo, dirlo anche. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. E quando il pastore, questo pastore che era ospite, ha iniziato a parlare, le diceva al pastore nuovo, le diceva: tu non sei un vaso di acciaio, le diceva, tu sei un vaso di terra, non dimenticare che tu sei un vaso di terra. Le parlava così forte, ma sapete che era Dio che mi stava parlando per il momento speciale che io stavo vivendo in quell'incontro, in quella regione, lontano da casa, ma Dio mi parlava di una maniera forte: tu non sei un vaso di acciaio, ricordati, sei un vaso di terra. Molti penseranno che sei un vaso di acciaio, ma non lo sei, sei un vaso di terra. A volte tu penserai che sei un vaso di acciaio, ma non lo sei, sei un vaso di terra. E Dio mi ha parlato in quella mattina, io piangevo. È stato un incontro speciale, forse questo pastore è venuto non solo per l'altro, sino anche è venuto per dirmi una cosa semplice come questa. Sapete, l'Apostolo Paolo, quando scrive questo verso, stava vivendo anche un momento speciale. Era la chiesa di Corinzi, se sapete un po' la storia, avete letto delle lettere a Corinzi, la chiesa di Corinzi stava vivendo un momento particolare. C'erano persone che anche mettevano in dubbio l'autorità dell'Apostolo Paolo. E quello, penso che Paolo stava un po' rotto, un po' sì. E scrive questo: abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. E nell'Antico Testamento c'è un verso, Genesi, che dice lo stesso. Genesi, capitolo 2, verso 7. Possiamo leggere questo? Dio, il Signore, formò all'uomo della polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Più o meno lo stesso. Forse l'Apostolo Paolo stava leggendo questo quando ha scritto la lettera ai Corinzi. Dio fa all'uomo, Adamo, della polvere della terra. E penso che prima era soltanto un vaso di terra. Ma dopo dice che ha soffiato nella sua narice alito vitale. E che cosa è entrato in questo uomo? È entrato della propria essenza di Dio. Non lo so, è entrato lo Spirito Santo, è entrato Gesù, non lo so. Però è entrato vita di Dio. Per quello dice che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, non nel vaso di terra, non in quello, sino in lo che sta mettendo dentro di questo vaso. E credo che è questo tesoro. Abbiamo questo tesoro, dice Paolo, in un vaso di terra. Ma Dio ha soffiato in questo vaso di terra alito di vita. E questo diviene un'anima vivente. Adamo e Eva stavano in questo livello, abitavano in questo livello, avevano un livello di comunione con Dio molto grande, camminavano con Dio nel giardino, potevano parlare con Dio, potevano camminare con Dio, avevano un livello di comunione, molto, una posizione molto alta avanti a Dio. Dopo è venuta la caduta. E con questa caduta, quella posizione ha sceso molto basso, e questa comunione con Dio si è rotta, ha successo qualcosa lì che si è rotto questa comunione con Dio. Perché nessuna cosa che ha peccato, questo peccato di Adamo e Eva, è entrato nella razza umana, è entrato in tutti noi. E per quello siamo scesi a questa posizione. Dopo, che succede? Dopo di tanto tempo viene Gesù. E Gesù ci viene, muore in la croce, muore per noi, paga un prezzo di sangue, del suo proprio sangue per noi. E che cosa succede? Che cosa succede con questo? Dice in Giovanni che tutti che hanno creduto in Lui, che li hanno ricevuto a Lui, Dio, il Padre, le ha fatto diventare figli di Dio. Che cosa ci porta allo stesso livello che avevamo prima? Forse, se non sbaglio, un livello superiore. Perché? Perché di Adamo e Eva non parla di figlio di Dio, però di noi parla di figli di Dio. Attraverso la sangue di Gesù, Dio ci ha portato a un livello superiore. E noi, anche come Adamo e Eva, possiamo camminare con Dio, possiamo parlare con Dio, possiamo avere comunione con Dio. Ma nessuna cosa che ha peccato può avere comunione con Dio. Ma perché noi possiamo avere comunione con Dio? Spero che mi sentite. Sì. Questo sono io. Quando Dio mi guarda, Dio non guarda il vaso di terra. Dio non guarda i miei peccati. Dio mi guarda e mi guarda attraverso di Gesù, con questo filtro di Gesù. Mi guarda santo, senza nessun peccato. Per quello la Bibbia, quando parla, parla ai santi che stanno in Galazia, ai santi che stanno in Corinti, ai santi, perché il santo è un sinonimo di un credente. Quando Dio mi guarda santo, Dio mi guarda attraverso di Gesù, Dio non sta guardando il vaso di terra, sta guardando il tesoro che sta dentro. Dice che viene a cercare una chiesa senza macchia e senza ruga. Noi siamo quella chiesa senza macchia e senza ruga, ma io posso dire: Signore, noi abbiamo tanti difetti. Signore, io non sono senza peccato, io non sono santo, io sono conosciente di questo, io lotto ogni giorno con i miei peccati. Ma Dio mi guarda e io non vedo nessun peccato. Perché? Perché c'è qualcuno che con un prezzo di sangue ha pagato per noi, ha pagato per i nostri peccati. Così, quando Dio ci guarda, quando Dio ti guarda santo, ti guarda senza peccato. Ma io dico: ma Signore, ma stai sbagliando, io non sono così, sono un vaso di terra. Ma Dio ci guarda santi. Quando Dio guarda la Chiesa, guarda una Chiesa santa, senza manca, senza ruga. Per quello dobbiamo avere cura quando noi guardiamo la Chiesa. Dobbiamo guardare la Chiesa come Gesù ci guarda. Ma io posso dire: questo non lo merito questo. Ma Dio ci guarda santi. Sapete come si chiama questo? Questo ha un nome. Tutto questo che sto dicendo ha un nome. Sapete qual è questo nome? Grazia di Dio. Questo è grazia di Dio. E Dio ci ha chiamato a vivere nella sua grazia. Quando noi accettiamo questo, noi viviamo nella grazia di Dio. Che cosa è la grazia di Dio? La grazia, ci sono diversi significati, però il significato per noi è questo: un regalo di Dio, un dono di Dio che noi non meritiamo. E questo è lo che Dio ci dà. E Dio ci chiama a vivere nella sua grazia. Dio ci chiama a essere santi. Dio ha una chiamata per tutti. Voglio dirlo questa mattina e voglio enfatizzarlo bene: Dio non rifiuta a nessuno. Voglio parlare della predestinazione, oh, che tema, no? Che a volte può creare un po' di confusione. Ma io sono convinto che tutti noi siamo chiamati, siamo predestinati per essere salvati. Tutti. La volontà di Dio è che nessuno si perisca, che tutti possano arrivare alla salvezza. Questa è la volontà di Dio. E tutti siamo predestinati a vivere nella grazia di Dio. Tutti siamo predestinati. Sapete una cosa? Vi darò, non lo so se lo sapete, però vi do un segreto. Questa grazia di Dio, questo vivere nella grazia di Dio è la che mi fa non peccare. Non è che posso vivere così, Dio mi vede così, posso peccare tranquillo. No, non è questo, è tutto lo contrario. Produce un effetto tutto contrario. Questa grazia di Dio conquista il mio cuore e non voglio peccare. E mi dà la forza per non continuare a peccare. E questa è la grazia di Dio. Invece la colpa e la condannazione produce un effetto tutto contrario. A volte non si capisce questo, però produce un effetto tutto contrario. La colpa e la condannazione mi porta a continuare a peccare. Non mi libera, non mi libera del peccato. Lo che mi libera del peccato è la grazia di Dio, il vivere nella grazia di Dio. E tutti siamo chiamati a vivere nella grazia di Dio. E se il tempo se mi sta andando, io parlo molto della grazia, però voglio tornare al verso di prima, però dico qualcosa, la volontà di Dio è che tutti noi siamo salvi. Dio non rifiuta a nessuno, però no, noi sì possiamo rifiutare a Cristo. Noi sì possiamo rifiutare la grazia di Cristo. Per quello, per la volontà di Dio che nessuno perisca. Torniamo al verso questo, ma noi abbiamo questo tesoro. Io voglio che voi mi aiutate in questa mattina, voi siete bravi, aiutatemi a identificare tre cose che stanno in questo verso, che sarà la predica di questa mattina. Noi abbiamo questo tesoro, la prima cosa, in vasi di terra, in vasi di terra, seconda cosa, affinché questa grande potenza, guardate lo che dice questo verso, questa grande potenza sia attribuita a Dio e noi a noi. Vuole dire che abbiamo un tesoro, vasi di terra e una grande potenza, parla, che non viene da noi, che viene da Dio questa grande potenza. Sono tre ingredienti che stanno in questo verso e sono tre ingredienti che io lo trovo in tutte le storie della Bibbia. Trovo questi tre ingredienti, anche nella nostra storia stanno questi tre ingredienti. Sapete che il valore che ha il vaso di terra non è per il vaso di terra, è per il contenuto che lo che sta dentro dà valore a questo vaso di terra. Noi abbiamo un valore e questo vaso di terra si deteriora con il tempo. Non so se vi rendete conto, no? A volte un mal di dente mi fa ricordare che sono un vaso di terra, un mal di schiena, mi alzo la mattina non posso e mi fa ricordare che sono un vaso di terra. A volte una malattia ci fa ricordare che siamo vasi di terra. La morte di una persona della famiglia, una persona che amiamo, che cosa ci fa ricordare? Che siamo vasi di terra. Identifichiamo queste tre. Il tesoro, qual è il tesoro? Che cosa sarebbe il tesoro? Potete dirlo, no. Che cosa è il tesoro? Che cosa pensate voi che è il tesoro che Dio ha messo in questo vaso di terra? La grazia di Dio, va bene, già mi hanno detto tutto. La vita eterna, l'amore, lo Spirito Santo, Gesù. Possiamo dirlo tutto in Gesù. Però ci sono tante cose. Dio ha messo anche una chiamata in noi. Sapete che io voglio fermarmi in questo. Siamo tutti predestinati, tutti siamo chiamati a svolgere un proposito in questa vita. Se il proposito della vita sarebbe essere salvati soltanto, possiamo morire tutti, perché vivere si già sta. Ma Dio ancora ci tiene vivi perché c'è un proposito. C'è un proposito che il Signore vuole con ogni uno di noi e per quello ancora siamo sulla terra e per questo ancora siamo vivi. Possiamo leggere il verso che sta in Efesini, capitolo 2, verso 10, e dopo andiamo alle storie. Vi racconterò tre storie e voi dovete trovare questi tre ingredienti in queste tre storie. Efesini, capitolo 2, verso 10, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente da tanto tempo ha preparate affinché le pratichiamo, affinché camminiamo in loro. Dobbiamo capire questo, siamo qui con un proposito, siamo qui con un scopo. Dio ancora, la salvezza già l'abbiamo, ma la salvezza è solo l'inizio di questo proposito che Dio ha con noi, di questa chiamata. Ancora c'è tanto da fare. E per questo Dio ha messo in noi questo tesoro, ha messo anche talenti, ha messo doni, ha messo una vocazione, qualcosa che Dio vuole usare in noi per benedire questa terra ancora, per glorificarlo a Lui in questa terra. Andiamo siamo d'accordo che tutti siamo chiamati? Perché se non siamo d'accordo io non posso continuare. Siamo d'accordo? Volete che finisco? Dite che sì, così già posso. Andiamo alla prima storia. Pietro e Giovanni stanno entrando nel Tempio per la porta che si chiama Bella, in Atti capitolo 3 sta questa storia. entrano per la porta che si chiama Bela, si trovano con un sopo, una persona forse paralitica, non lo so, che non poteva camminare fino della nascita, era con questo problema. E questo uomo, quando vede venire a Pietro e Giovanni, mette la mano aspettando con l'aspettativa e guarda loro con l'aspettativa di ricevere qualcosa. Pietro, Giovanni vanno lì, vedono questo uomo che le chiede con questa aspettativa e vogliono darle qualcosa, benedirle, forse mettono la mano in tasca, non trovano niente di soldi, però c'è qualcosa che succede lì. E Pietro le dice a questo uomo, guardaci. E questo uomo le guarda attento aspettando di ricevere, dice la Bibbia, qualcosa. Ma Pietro dice, dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. E questo uomo dice che le hanno preso in mano, si è alzato, ha iniziato a camminare, dopo ha iniziato a saltare e dopo ha iniziato a lodare a Dio, di una maniera incredibile che tutta la gente che stava lì ha iniziato a avvicinarsi perché riconoscevano che questo era l'uomo che era della nascita, che stava sempre ogni giorno nella porta del tempo chiedendo l'elemosina. Che cosa è successo? Sapete che questo Pietro, due mesi prima, aveva lasciato da solo Gesù, perché questo era subito dopo il Pentecoste, aveva lasciato da solo. Due mesi fa, un po' meno anche, aveva rifiutato tre volte a Gesù, aveva negato tre volte a Gesù, lo stesso Pietro. Dove potete trovare il vaso di terra? Pietro è il vaso di terra. Ricordate, vado indietro, un vaso di terra, che cosa? Un tesoro, il tesoro abbiamo visto, il vaso di terra, chi è il vaso di terra? Sono io, il vaso di terra siamo noi, è facile identificare. Però dice che anche in questo vaso di terra, con questo tesoro, c'è una potenza, dice, che è una potenza che non è attribuita a noi, sino che è attribuita a Dio. Quella è una potenza che abita Dio. Potete distinguere queste tre cose? Il tesoro o il vaso di terra, chi è? Pietro. Pietro è un vaso di terra. Pietro e Giovanni sono vasi di terra. E questo sopo è un vaso di terra. Il tesoro, qual è il tesoro? Pietro guarda dentro e dice, no, dell'oro e dell'argento non ho. Ma quello che ho, ti lo do. Questo tesoro che ho. E dopo la potenza di Dio, quella potenza, quella grande potenza che fa camminare a questo paralitico. È facile? Facile? Possiamo fare un'altra storia? Va bene. Voglio dire un paio di cose prima di... Noi come Pietro abbiamo un tesoro. Noi come Pietro siamo vasi di terra. E abbiamo una potenza che opera in noi, che opera attraverso questo tesoro, che non appartiene a noi, che appartiene a Dio. Sapete una cosa? La questione più importante non è lo che non abbiamo. Lo che non abbiamo, non lo abbiamo. L'importante è che facciamo con lo che abbiamo. Che facciamo con questo tesoro che abbiamo. Tutti noi abbiamo questo tesoro. Una cosa che fa l'nemico, sapete che cosa fa? Lo fa con tutti noi. E tutti noi cadiamo nella stessa trappola. Ci concentriamo in lo che non abbiamo, invece di concentrarci in quello che abbiamo e che cosa facciamo con quello che abbiamo. Noi a volte ci concentriamo in quello che non abbiamo. Lo importante è che facciamo con quello che abbiamo. La seconda storia, non la leggo perché è molto lunga e la conosciamo molto bene. Guardate questi tre ingredienti, dovete trovarla in questa storia. Gesù sta predicando, c'è una folla intorno a lui, più di 5.000 persone, e i discepoli si avvicinano a Gesù e le dicono, Signore, io non lo so, se forse come io oggi, che se va via il tempo, Gesù sta predicando e i discepoli le dicono, ehi, Signore, se fa tardi, dovete lasciare andare alla gente che possono andare a trovare di mangiare, che possono andare ai villaggi che sono vicini a trovare di mangiare, perché si sta facendo tardi, Gesù sta insegnando, Gesù è molto entusiasta insegnando. Ma Gesù dice una cosa interessante, molto interessante, dateli voi di mangiare. E loro si guardano e uno di loro dice, Signore, neanche 200 denari saranno abbastanza per dare mangiare a tutta questa gente. 200 denari è il salario di 200 giorni di lavoro. Sarebbe, che cosa stanno facendo i discepoli? Stanno guardando lo che non hanno. Non abbiamo 200 denari, non abbiamo i soldi per farlo. Signore, neanche questo sarebbe abbastanza per dare di mangiare a tanta gente. Che cosa risponde Gesù? Questo per me è anche incredibile. Forse Gesù sapeva che io volevo insegnare questo stamattina. Perché dice, che cosa avete? Le chiede. E che cosa avete? E loro iniziano a guardare e trovano lì 5 pane e 2 pesci. Datemi quello che avete. E questo che hanno dato Gesù, Gesù ha ringraziato Dio, ha benedetto quei 5 pane e 2 pesci, e con questi 5 pane e 2 pesci ha dato di mangiare a tutta quella folla. Vi rendete conto? Noi a volte lo stesso. Pensiamo subito in quello che non abbiamo, ma non ci rendiamo conto di quello che abbiamo. E quello che abbiamo può sembrare poco, 3-5 pani, 2 pesi, poco, ma quel poco nella mano di Dio non è poco. Lo che per noi è poco, per Dio non è poco, perché è un tesoro, c'è un tesoro lì che sta operando, c'è una potenza che sta operando, che è la potenza di Dio. Vasi di terra, dove stanno? O il tesoro? Il vaso di terra, potete distinguere queste tre cose qui di una maniera molto chiara. Il tesoro è quello che Gesù è, Gesù stesso il tesoro. È la grazia di Dio il tesoro, quella grazia di Dio che non meritiamo il tesoro. Vasi di terra, tutti i discepoli erano vasi di terra. Sempre siamo vasi di terra, non siamo bravi. Signore, non abbiamo soldi, non abbiamo questo. Signore, io sono uguale. Ma non ci rendiamo conto che quello che abbiamo ha un valore molto grande e Dio può fare molto con quel poco che noi abbiamo. E dopo c'è la potenza che opera, che con 5 pani e 2 pesci hanno mangiato più di 5.000 persone. E vado alla terza storia, devo andare veloce per arrivare alla terza storia, perché in quella mi voglio fermare anche di più. E vado, leggo così vado più veloce. Abbiamo Gesù nel cuore, dobbiamo dare valore a ciò che abbiamo, anche può sembrare poco, non è poco, dobbiamo dare valore, sentite, dobbiamo dare valore a ciò che abbiamo, diamo valore, non sottovalutare ciò che hai, non facciamo come quello che, sapete la storia, no? 5 talenti ha dato uno, all'altro ha dato 2 talenti, all'altro ha dato un talento, e il che ha dato un talento lo ha messo sotto terra, no? Lo ha seppellito quel talento. Sembrava poco, sapete, un talento era 34 kg, sono 34 kg di metallo, di oro o di argento, non era poco, ma quello lo ha seppellito. Io mi ricordo sempre di questo, del cimitero, quanti hanno seppellito lì il suo talento, quanti sono andati di questa vita senza dare, senza sviluppare il suo talento, il suo dono. La capacità che Dio ha dato. Se vado al cimitero posso vedere quanti talenti sono lì sottoterrati, quanti sono sepolti, quante canzoni, quante poesie, quante dipinti, quante parole di incoraggiamento, quante parole di benedizione, quante sono sottoterra e qui nel cimitero perché non hanno dato quello che avevano. Forse pensando sempre in lo che non avevano o lamentandosi per quello che non avevano. E sapete, no, non ci lamentiamo di quello che non abbiamo, ringraziamo per lo che abbiamo. Ringraziamo. Io ho una famiglia, ho l'aria per respirare, ho la salute, ho un piatto per mangiare ogni giorno. Quanto vale questo? Non ci rendiamo conto quanto valore ha questo. Avere un letto dove andare a dormire ogni sera. Sapete che sono milioni di persone che non lo hanno, non hanno neanche questo. Dobbiamo ringraziare per quello che abbiamo. Anche a noi può sembrare poco, ma non è poco. Abbiamo tanto, abbiamo la nostra forza, però sono molte forze, noi abbiamo qualcosa per dare a Dio, per offrire a Dio, per sviluppare quella chiamata, per sviluppare destinazione che Dio ha per ogni uno di noi, quelli piani che Dio ha per ognuno di noi. Che cosa fa il diavolo? Il diavolo è il ladro per eccellenza e vuole rubare questa chiamata. Come lo fa? Robando la nostra purezza. È una forma che l'nemico usa molto a rubare la nostra purezza sessuale. Siamo bombardati. La nostra purezza nell'area del materiale, nell'area della finanza, nell'onestà, nell'essere fedeli in 10 centesimi, nell'essere fedeli in 20 centesimi, in dire la verità. Quello è purezza. Ma il diavolo vuole rubare la nostra purezza. Vuole rubare la nostra purezza nell'orgoglio. Sapete che siamo egocentrici, siamo in una società molto egocentrica e quello è un peccato. E quello anche ruba la purezza. E anche nella Chiesa, io devo riconoscere, mi metto in primo posto, siamo egocentrici, a volte siamo egocentrici, stiamo pensando soltanto in noi, ci mettiamo noi prima che l'altro. Anche nella famiglia a volte, penso che la famiglia è per me, non mi rendo conto che la famiglia è per Dio e che noi siamo per Dio. E dobbiamo chiedere perdono a Dio per il nostro egocentrismo. Siete d'accordo con me o sto sbagliando? Il diavolo lavora in tutto questo. Perché vuole rubare? Perché vuole rubare la chiamata. Il nemico sa che questa chiamata è importante, sa che lo che noi possiamo fare con lo poco che noi abbiamo, che noi pensiamo che abbiamo, quel poco Dio può fare tanto. Il nemico lo sa, e il nemico ti vuole rubare, mi vuole rubare, ti vuole rubare a te questa chiamata, lo vuole fare. Andiamo alla ultima storia, bueno, di questo. Voglio parlare della famiglia con questa storia. Perché? Entro in questo tema della famiglia. La famiglia è un tema molto speciale. Dio ha creato la famiglia. La famiglia non è un piano, non stava nella mente di nessun uomo. Era nella mente di Dio. Dell'inizio Dio ha predestinato questo, la famiglia. Ha voluto avere una famiglia. Perché serve la famiglia? Perché serve la famiglia? Bueno, la famiglia è l'ambito dove noi possiamo sviluppare questa chiamata, dove noi possiamo crescere. Io con il rapporto con mia moglie con me, con i nostri figli, in quell'ambiente, in quell'ambito si sviluppa, si svolge la chiamata che Dio ha per noi. Dio, per portare avanti i suoi piani, ha fatto la famiglia. Siete d'accordo con questo? E la Chiesa lo stesso. La Chiesa, che cosa è la Chiesa? La Chiesa è famiglia. E la Chiesa è la famiglia di Dio. E in questo ambiente, in questa Chiesa, in questo ambiente di famiglia, è dove si svolge, dove si sviluppano i doni, i talenti, la chiamata che Dio ha per ognuno di noi. Non solo per usare nella Chiesa, per usare fuori della Chiesa. Però in questo ambiente di famiglia si sviluppa questa chiamata di Dio. Per quello Dio lo ha fatto. E per quello l'nemico si è impegnato tanto, si impegna tanto in destruire la famiglia, in destruire la nostra famiglia. Siamo conscienti di questo, non possiamo ignorare. Io questo mi arrabbio un po', perché questa è una realtà che viviamo ogni giorno. Lo stiamo vedendo, l'nemico non ha nessuna pietà. Voglio andare alla terza storia, dobbiamo identificare in questa storia questi tre ingredienti, però questa storia ha a che vedere con una famiglia, e con una famiglia molto, molto speciale. Possiamo leggerla, sta in Marco, capitolo 9, del 17 al 27. Prima metto un po', faccio il contesto di questa storia. Gesù viene del monte della Trasfigurazione, viene con tre dei suoi discepoli, si trova con tutto un gruppo, una folla di persone che stanno discutendo con gli altri discepoli. Gesù dice, che cosa state parlando? Che cosa state discutendo? Voglio che mi aiutate in questo. Fatevi una scena, un film di questo, dove ci sono diversi protagonisti. E cerchiamo di metterci nel panni di questi protagonisti. Lo fate con me? Gesù già sta dicendo, che cosa state discutendo? Che cosa state parlando? Entra in scena un padre di un ragazzo, un padre disperato. Possiamo metterci nel suo panno? Chi sono? Siamo genitori, possiamo alzare la mano? Chi siamo genitori? Non la basate. Chi è genitore che è in potenza, che vuole essere genitore in un futuro, non so, che ha piani di sposarsi e di essere genitori? C'è qualcuno? Bravo. Per tutti noi. Che siamo genitori, io vi chiedo di cercare di capire a questo uomo. Uno della folla gli rispose: Maestro, ho condotto a da te, mio figlio, che ha un spirito muto. E quando si impadronisce di lui, dovunque sia, lo fa cadere a terra. Egli schiuma, stride i denti e rimane rigido. Che situazione, no? Che situazione. Io mi tocca forte. Questo padre, penso alla sofferenza di questo padre, no? In lo che sta vivendo questo padre. Ho detto a tuoi discepoli che lo scacciassero, ma non hanno potuto. Gesù disse loro, guardate questo, «O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me». Che cosa succede con Gesù? Io vedo Gesù si è arrabbiato, ma veniva della trasfigurazione, di stare nella gloria di Dio, e dopo troviamo un Gesù arrabbiato. Arrabbiato con che? Con che pensate che sta arrabbiato? Perché lo vedo qui, sta arrabbiato. Stiamo facendo il film, no? La scena. Ma Gesù è arrabbiato. L'ha letto questa storia 100 di volte per capire il motivo. Ma non credo che era la rabbia con i suoi discepoli. Anche se dice fino a quando vi sopporterò, però non era la rabbia con loro. Era la rabbia di Gesù, era con questa situazione, di vedere questo ragazzo in questa condizione. Come è arrivato a stare così? Perché dopo non li ha riproverato ai discepoli. Continuiamo con la storia. Glielo condussero e come vide, questo ragazzo vide a Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni. Che scena, no? Che situazione. Con le convulsioni. E caduto a terra si rotolava schiumando. Mamma mia. Adesso Gesù di nuovo. Entra Gesù in scena, ma con un cuore per questo padre. Credo che Gesù sta capendo quanta sofferenza c'è in questo padre. Non le dice dove hai portato tuo figlio, che cosa hai fatto con tuo figlio, non le dice niente di questo. Ma Gesù sta guardando un padre disperato, sta guardando un padre con una sofferenza molto grande. Gesù domanda al padre, da quanto tempo gli avviene questo? Egli dice, dalla sua infanzia. Io credo che questa era la rabbia di Gesù. Che cosa mi parla questo? Sapete perché mi fermo qui? Il nemico non ha nessuna pietà con i nostri bambini, nessuna pietà con i bambini, nessuna pietà, soltanto ha una sola cosa in mente, distruggere la vita dei nostri bambini, distruggere la vita dei nostri figli, distruggere la vita dei bambini che sono nella nostra società. Investe tantissimo in questo, investe tantissimo in mettersi nella scuola, in mettersi nella TV, in mettersi anche nella nostra famiglia, nei nostri pensieri. Sapete che sono persone che dicono no, non siamo genitori moderni. Attenti, attenti. Il nemico non ha nessuna pietà, non ha nessuna pietà, dobbiamo essere attenti. Questo credo che lo fa arrabbiare Gesù, questa situazione lo fa arrabbiare, che il nemico non ha nessuna pietà. Però guardate questo, dice il padre, dalla sua infanzia, da quando era piccolo, dice un'altra versione, e spesso a volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma adesso il cuore di un padre disperato. Ma tu Gesù, si puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci Gesù. Quel cuore di un padre, quel cuore di un padre disperato. Aiutaci Gesù. Che cosa ha fatto Gesù? Gesù adesso le sta chiedendo pietà e Gesù adesso ha pietà con questo padre, ha pietà con questo bambino. Ha pietà con noi, ha pietà con la nostra famiglia, ha pietà con noi, ha pietà anche con la nostra società. Gesù le dice, adesso inizia a ministrare al Padre, se puoi, io non so se perché no, uno de domanda, no? Se puoi, ogni cosa le dice al Padre, ogni cosa è possibile per chi crede. le sta mettendo fede, le sta incoraggiando, le sta sfidando a credere in una situazione difficile. Nessuno lo ha potuto liberare a quel bambino e quel padre è disperato, non sa neanche come fare, come credere. Se poi ogni cosa è possibile per chi crede. Continuiamo a leggere. Subito il padre del bambino esclamò con lacrime, esclamò con lacrime: io credo, Signore, vieni in aiuto alla mia incredulità. E questo, grido, questa disperazione, e Gesù, vedendo che la folla occorreva, sgridò allo spirito immondo dicendogli: spirito muto e sordo, le dice, io te lo comando, esci da lui e non rientrarvi più. Lo spirito, quello, esci da lui, pensate in questo, esci e non rientrarvi più. Che cosa le sta dicendo Gesù? Basta, basta di questa situazione, basta spirito immondo, vete fuori e non entrare più, basta, basta di distruggere questa famiglia, basta di distruggere la vita di questo bambino, basta, basta, vai fuori. E non distruggere più, non rientrare più. Lo spirito gridando e stracciandolo forte uscì e il bambino rimase come morto. E quasi tutti dicevano, è morto. Ma Gesù presolo per mano, lo sollevò e gli si alzò in piedi. Scusatemi che io sono sensibile a questa storia, mi fa anche a me male, un po' male. Però vedo un nemico che non ha nessuna pietà, ma vedo un Gesù pieno di amore, per dare un'altra possibilità a questa famiglia. Io non lo so voi, com'è la vostra famiglia, qual è la vostra situazione, io non lo so in che cosa state lottando nella famiglia, ma siamo attenti genitori, siamo attenti alla vita dei nostri figli, siamo attenti. Non possiamo pensare che la scuola domenicale o la scuola farà crescere i nostri figli, non lo faranno, lo faranno male, lo faranno con cose sbagliate. Se tu non parli con tuo figlio, anche quando sono piccolini dobbiamo farlo. Se tu non parli con tuo figlio, lo parlerà un altro le insegnerà cose che non, le metterà valori che non sono i nostri valori. Non possiamo ignorare questo, non possiamo ignorare questa guerra, non possiamo ignorare questa battaglia che abbiamo contro l'nemico, non possiamo ignorare che l'nemico si impegna per distruggere la nostra famiglia. Non trascurare tua moglie, non trascuri tuo marito, non trascurare i figli, figli, non trascurare i vostri genitori. Siamo tutti vasi di terra, tutti abbiamo bisogno, però dentro di questo vaso di terra c'è un tesoro e con questo tesoro c'è una potenza per dire basta, basta Satana, basta di distruggere la mia società, basta di distruggere i miei bambini, basta di distruggere la mia famiglia, il mio matrimonio, voglio vivere nella grazia di Dio, basta, basta, basta. Possiamo pregare, io non voglio già finire, possiamo alzarci in piedi. Io non lo so che cosa l'nemico ti sta rubando, che cosa l'nemico ti sta, che trappola ti sta facendo cadere, ma voglio lasciare un spazio che l'Spirito Santo può parlarci attraverso questa storia. Forse c'è qualcun genitore che può dire per me già è troppo tardi, o qualcun figlio può dire per me già è tardi, ma mai è tardi, mai è tardi. Dio non ci rifiuta mai. Questo uomo ha trovato, ha chiesto a Dio pietà e ha trovato la pietà di Dio. Mai è tardi. Però noi possiamo questa mattina prendere autorità e dire all'nemico basta, basta, basta di distruggere, basta di distruggere la mia famiglia. Posso dire basta a ogni pensiero che non appartiene a Dio. Preghiamo tutti, per favore, siamo in preghiera. Prendiamo autorità adesso per dire basta Satana, basta l'nemico, basta, basta quei pensieri, per dire basta all'adulterio, per dire basta alla fornicazione, per dire basta a quello che mi sta facendo male e che mi sta rubando. Prendiamo autorità in questa mattina per dire basta, basta, non voglio più, voglio vivere nella grazia di Dio. Basta, basta, basta di vivere così. Forse questa preghiera non è per tutti, però io voglio fare questa preghiera insieme a quelli che vogliono dire basta, basta questa situazione, basta quello che mi sta rubando la vita tra i miei figli, basta, basta, basta nel nome di Gesù. Signore, abbi pietà di me, abbi pietà della mia vita, della mia famiglia, abbi pietà di me, Signore. Se c'è qualcuno che vuole alzare anche le mani, lo può fare. Anche se qualcuno ha bisogno di preghiera, può venire anche avanti, lo può fare. Come vuoi, però dile, parla con il Signore. Parla con il Signore. Che cosa, Signore, Spirito Santo, mostraci che cosa ci sta rubando. Che cosa stiamo facendo male, che stiamo sbagliando. Che cosa non ti gradisce, Signore. Che devo dire basta, che devo dire basta a questa situazione. Basta, basta. Se c'è qualcuno che sta lottando con un pensiero di non voler vivere più, dile basta a questo pensiero. Se qualcuno sta lottando con un pensiero di suicidio, dile basta, basta, basta, nel nome di Gesù, basta. Forse deve dire basta a un'amicizia o a un rapporto che non è la persona giusta e la persona sbagliata e non hai il coraggio di dirle basta o hai sbagliato in questo, ma c'è tempo ancora, puoi dire basta, basta a quell'amicizia che non ti fa bene, che ti fa male, che ti allontana dal Signore, quell'amicizia che il Signore non sostiene, non approva. Non lo so, pensate voi, ma voglio che prendiamo questo tempo per pregare. Forse è un'abitudine che a Dio non le piace. Non lo so. Oh Padre, veniamo a Te, Signore, come vasi di terra, Signore. Ci presentiamo avanti a Te, Signore. Vogliamo chiederti, abbi pietà, Signore, abbi pietà di me, Signore, abbi pietà di me. Tu sai, Signore, io sono un vaso di terra, Signore, io lo riconosco. Sono un vaso di terra, Signore. Ho tanti difetti, sbaglio tante volte. Devo chiedere perdono tante volte. Signore, aiutami, Signore. Aiuta questo vaso di terra a vivere quella chiamata, quel proposito che tu hai per me, Signore, che nessuna cosa può rubare per me, per mia moglie e anche per miei figli, Signore, che nessuno può rubare il proposito che tu hai con i miei figli, con noi come coppia, come famiglia, che nessuna cosa può rubare questo, Signore. Voglio concentrarmi in questo, in aiutare i miei figli a svolgere quella chiamata che tu hai per la loro vita, Signore. Aiutaci, Signore. Vogliamo compiere quel proposito, Signore, per quale tu ancora ci tieni qui sulla terra, Signore. Ti voglio chiedere perdono, Signore. Perdono per i nostri peccati, Signore. Perdonaci per i nostri peccati, Signore. Perdonaci. Perdonaci, Signore. Vogliamo vivere nella Tua grazia, Signore. Perdonaci. Perdona la nostra ribellione, Signore. Perdona i nostri peccati, Signore. Perdona i miei peccati, Signore. Non serve nasconderlo. Tu già lo conosci, Signore. Tu mi conosci. Tu sai chi sono. Tu sai chi sono. Sono un vaso di terra, Signore. Lo riconosco, sono un vaso di terra. Perdona i nostri adulteri, le nostre fornicazioni, tante cose che abbiamo fatto sbagliate, Signore. Perdonaci, Signore. Abbi pietà, Signore. Abbi pietà, perdonaci se abbiamo trascurato, Signore, la famiglia. Perdonaci, Signore. Abbiamo sempre tempo, i genitori, abbiamo sempre tempo per chiedere perdono. Uomini, donne, figli. Abbiamo sempre tempo per chiedere perdono, a Dio e per chiedere perdono all'altra persona. Io come padre ho dovuto chiedere perdono ai miei figli tante volte, perché ho sbagliato, so che ho sbagliato, ma c'è potenza nel perdono, c'è potenza nel chiedere perdono, c'è una potenza, questa potenza che non viene da noi, viene da Dio, quando noi ci umiliamo come questo padre e andiamo, Signore, abbi pietà di me, fai qualcosa, Signore. Signore, aiutaci, Signore, aiutaci, Padre. Aiutaci, Signore. Oh, Padre, nel nome di Gesù te lo preghiamo, Signore. Aiutaci, Signore, vogliamo guardare a te.